largo tiempo, caste sabía de rimananza, ni in età mia, e o stesso viento, stato già malinconia, cavita da, e non avimma avuta vita nostra, l'avimma rotulata da sto monte, avimma fatta pace dopo mille tradimenti. Ma uscita luna, vennata notte, restammo insieme e chiusa fuori, e chiusa dentro, tenimmo già stretta, stretta, senza parlare. Chissà quant'anna tena, fa pure cappia, ma non chiuda nessuna, ninetta mia, ma dal riguardo e vola. La malinconia abbia fermi e non avimma avuta vita nostra, l'avimma rotulata da sto monte, avimma fatto pace dopo mille tradimenti. Ninetta canta, canta sulla menta, amore conta, restammo insieme, tenimmoci in mano.